e là fuggevo, fuggevo, ora si ne via voluta, diviate i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possenteva. Amore fra i carici più caldi baci avrà. Yeah.